Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Riprendiamo insieme una nuova settimana in nostra e vostra compagnia. Allora, avevamo scommesso che quella di mercoledì scorso, per chi se la ricorderà, sarebbe stata la puntata più ricca di telefonate e di interventi degli ascoltatori del mese di ottobre. Chissà se oggi dovremo vincere questa previsione che avevamo fatto, perché forse dovremo anche smentirci. Noi ce ne aspettiamo altrettante di telefonate, perché a pochi giorni di distanza torniamo sulle difficoltà e sui disservizi che i consumatori si trovano a subire da parte dei gestori dei servizi di gas ed energia elettrica. Le zone coinvolte d'Italia sono tante e altrettante le aziende, ma come ben sa chi ci ha seguiti mercoledì, c'è una situazione particolarmente critica che è quella di Roma, ed è una la società in particolare che è sotto i riflettori, l'ACEA di Roma. Roma d'altronde è una città grande, città metropolitana, centinaia di migliaia di utenti. Molti cittadini romani stanno lamentando da mesi i ritardi della multi-utility, il principale fornitore delle utenze domestiche della capitale. In alcuni casi le bollette non arrivano per lunghi periodi, in altri la cifra conteggiata non sembra corrispondere ai consumi effettivi. Altre volte ancora si riscontrano difficoltà, per esempio, nelle procedure di voltura o di passaggio al mercato libero. In realtà qualche ascoltatore ci ha segnalato che si è ritrovato ad essere passato al mercato libero senza aver sottoscritto nessun nuovo contratto a sua insaputa. Disagi come questi mettono in allarme i consumatori, spaventati dalla possibilità che costi imprevisti vadano a mettere in crisi l'equilibrio del bilancio familiare, spesso già delicato. Mercoledì abbiamo affrontato il tema con le associazioni dei consumatori, perché l'azienda non aveva potuto essere presente con noi. Oggi invece abbiamo con noi l'amministratore delegato di ACEA Energia in persona, che potrà rispondere alle vostre domande. Per cui io ringrazio e saluto il dottor Antonello Giunta, amministratore delegato di ACEA Energia Roma. Dottor Giunta, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Allora, io quindi ritorno di nuovo perché peraltro ho già fatto una lunga chiacchierata col dottor Giunta e sa il tenore delle segnalazioni che arriveranno da parte dei nostri ascoltatori, e oltre a poi farvi un riassunto rispetto a quello che hanno detto nella puntata di mercoledì scorso, oggi naturalmente invitiamo gli ascoltatori a segnalarci se lo vorranno casi nuovi, come sempre all'800240024 potete scriverci. Immagino che sarà oggi una puntata romanocentrica, ma naturalmente poi, anche se questa azienda dovesse segnalarci una buona prassi per risolvere queste situazioni spiacevoli, magari le gireremo anche come segnalazione alle altre società in Italia che lo stesso si macchiano a volte di questi comportamenti, volenti o nolenti, perché poi ci sono delle situazioni magari di malafede se le pratiche commerciali sono scorrette. A volte anche la riorganizzazione interna di certi servizi, dell'erogazione di certi servizi, può portare anche a queste circostanze. Comunque ho dato il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, ho ricordato che possono intervenire anche chiamandoci, scrivendoci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche animare il dibattito su Facebook, come fate sempre, sul nostro profilo salvadanaio-radio24. Prima di entrare nel merito della lunga chiacchierata che faremo questa mattina con il dottor Giunta, volevo ricordare anche un'altra cosa. Noi abbiamo organizzato la puntata su questo argomento la settimana scorsa, mercoledì scorso. Avevamo invitato l'azienda, che non ha potuto metterci a disposizione nessuno, circostanza per la quale ho avuto una discussione molto molto accesa con l'ufficio stampa appunto di ACEA. L'ho trattato anche molto male, me ne dispiace perché il collega si è sentito colpito direttamente in prima persona. Io mi rendo conto di essere stata molto perentoria nel commento che ho fatto, ma non era certo la persona l'obiettivo della mia contestazione. Questo volevo precisarlo pubblicamente, sperando di risolvere pacificamente la spiacevole situazione che si è venuta a creare tra di noi. Detto questo, dottor Giunta, prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata, per farle un po' un sunto di una situazione che peraltro lei conosce molto bene, le faccio però sentire le voci che abbiamo raccolto a Salva Danaio nella puntata di settimana scorsa, così magari, se le ritiene, ripartiremo da queste, va bene? D'accordo. Benissimo. Io ho fatto il contratto con ACEA a marzo 2011. è arrivata la bolletta relativa al contratto senza nessun consumo e non mi è arrivato null'altro. Ho fatto una raccomandata di reclamo e non ho avuto risposta. Quindi è un anno e mezzo che io non pago la luce. Questo è un problema. Ho calcolato col pallottoliere tutte le ansie che in un giorno... Ho pagato una bolletta doppia e da agosto 2011 ho scritto per avere il rimborso. Ho anche telefonato al numero verde. Quale aiuto potrei ricevere a notte fonda telefonando a un numero verde? Ultima lettura effettuata 14 ottobre 2010 e poi tutto a lettura stimata. Fatture di 300 euro, 500, 924, certo. Alla fine sono andata giù agli uffici per capire questa cosa. Quando io vado alla CEA Roma, agli uffici della CEA Roma, e vedo dei poveri pensionati che non hanno la possibilità di pagare perché hanno le pensioni basse e non riescono a venire ad una soluzione di queste fatture alte che arrivano, ma è possibile che nessuno prende come si dice, l'iniziativa, il blocco di questa situazione? Ho saldato le multe sospese, luce, gas, bollette comprese. Insomma, Samuele Bersani è riuscito a saldare tutto, il nostro cantante che ci ha fatto compagnia in questo brano anche di raccolta di casi segnalati dai nostri ascoltatori. Per gli utenti invece di Acea Roma è un po' più complicato. Dottor Giunta, arrivano le bollette a casa sua? Sì, sì, arrivano a casa mia. Ma non è perché lei le porta direttamente dall'ufficio a casa? Una relativa puntualità, ecco, quindi... Posso assicurarle che questo è confermato. Poi è evidente che casi in cui le fatture non possono essere recapitate puntualmente si può verificare, e questo francamente credo che sia anche... Questo è fisiologico che capiti. Tutte le strutture sulle quali noi ci appoggiamo, così come tutti gli altri operatori, per il recapito della fattura. È evidente che laddove si dovessero verificare casi di questo genere... bisogna immediatamente segnalarlo, perché il tutto ovviamente deve essere in qualche modo anche evidenziato laddove dovessero esserci dei casi particolari. Ci andremo con calma, sì. Abbiamo messo in campo un metodo di consegna praticamente della fatturazione, che è denominato formula certa, che assicura la consegna su tutti i due mercati che noi presidiamo, Libero e Tutela, che sfiora il 90%, quindi è evidente che ci assicura la consegna della lettura di fattura nel 90% dei casi. Ah beh, del documento di fattura. Il problema è però quello che si verifica dall'altra parte, prima della fatturazione, quando naturalmente un utente vi deve comunicare invece la lettura dei consumi. Qua la questione si complica un po' di più, però andrei con ordine, dottor Giunta, perché vorrei sapere intanto Acea Energia quanti utenti gestisce. Allora, i mercati che noi presidiamo sono due: è il mercato di servizio di maggior tutela, dove sul mercato di maggior tutela ci sono circa 1.200.000 clienti, mentre sul mercato libero sono circa 300.000. Ovviamente quando parliamo di mercato libero parliamo del mercato nazionale, certo. Quando parliamo di mercato di servizi di maggior tutela parliamo del mercato esclusivamente romano. Allora, quando noi abbiamo organizzato appunto la puntata mercoledì scorso, nel tentativo di capire che cosa stesse succedendo e perché mai appunto tutte queste bollette non arrivavano, e quando arrivavano appunto agli utenti arrivavano con un grande ritardo rispetto a quella precedente, dopo molti mesi rispetto a quella precedente, e anche con un conteggio di consumi presunti che gli utenti stessi appunto contestavano o contestano, l'associazione dei consumatori che abbiamo invitato ci ha spiegato che ci ha raccontato che appunto Acea ha esternalizzato il servizio di lettura consumi e fatturazione agli utenti, e che questo passaggio starebbe determinando appunto questa situazione caotica. Acea dice che questo non è vero, e però una sorta di migrazione interna, dottor Giunta, se non mi sbaglio, c'è stata. Allora, se non si è trattato di una vera e propria esternalizzazione ad un outsourcer, ad una società terza appunto rispetto a voi, esattamente che cosa è successo? Se ci può spiegare l'origine di questo problema. Allora, il servizio di fatturazione, quindi l'inesattezza sarà, non è stato esternalizzato nessun servizio di fatturazione, quindi il servizio di fatturazione era e rimarrà un servizio interno alla società. Questo puntualizzando anche un po' quello che aveva sottolineato l'Associazione dei consumatori, se non ricordo Codici. Sì. Detto questo, il problema legato invece alle fatturazioni in acconto è un problema un po' più complesso. Quello che si è verificato all'interno della società, e in particolar modo per quanto riguarda il servizio di maggior tutela, è stata la migrazione da un sistema informativo ad un altro di tutta la base clienti che è sottostante a questo mercato, quindi il 1.200.000 clienti che è migrato da un vecchio sistema a un nuovo sistema di fatturazione, e che quindi praticamente questo ha generato, come in tutte le migrazioni che avvengono su grandi masse critiche dei clienti, degli eventuali rallentamenti, dei possibili rallentamenti che ci sono stati sia nel sistema di monitoraggio dei consumi fatturati che anche sull'eventuale totalità dei clienti che si... Quando è iniziata questa migrazione, dottor Giunta? Allora, la migrazione si è completata, quindi il Go Live si è completato ad agosto del 2011, quindi praticamente circa un anno fa. Si è completata lì, e quindi da lì è partito praticamente, si sono accentuati, diciamo, le nostre problematiche, che via via ovviamente nel corso del tempo sono state mitigate, però la società nel frattempo ha messo in campo svariate azioni per mitigare questo fenomeno, che praticamente era ovviamente pesato dalla società, e questo anche per darle la dimensione di che cosa la società ha messo in campo. Noi abbiamo sospeso tutte le azioni di recupero del credito, di sospensione dell'eventuale non pagamento delle fatture, per un periodo che va dal luglio 2011 a gennaio del 2012, e abbiamo interrotto tutte le procedure di distacco fino ad aprile di quest'anno, fino ad aprile 2012, quindi non abbiamo mandato avanti nessuna richiesta di distacco per tutto il periodo, praticamente da agosto 2011 fino a aprile 2012. Adesso invece i distacchi stanno riprendendo, anche se qualcuno può dimostrare che mantiene appunto una situazione anomala? No, e allora quello che volevo dire è evidente che nel momento in cui la società ha ripreso le attività di messa in mora, sollecito ed eventuale distacco della fornitura, è evidente che si sono accentuate tutte quelle problematiche che sono rimaste ancora insolute agli occhi del cliente, quindi si è riaccentuato il problema di quelle tra virgolette clientela, parte di clientela per le quali ancora non siamo riusciti a risolvere il problema. Però sono aspetti che devono essere affrontati in maniera distinta, ecco. Questo è importante dire che la società ha messo in campo tutte le azioni possibili per mitigare il fenomeno. A tal proposito, e chiudo, abbiamo potenziato anche il nostro servizio di call center, perché prima era il servizio di call center aveva come presidio dal lunedì al venerdì e il sabato solo la mattina, adesso lo abbiamo ampliato H24 dal lunedì alla domenica, questo appunto per dare la maggior risposta possibile in tutto il periodo della giornata. Su questo 1.200.000 utenti che hanno fatto il passaggio, no, che sono ancora sotto il servizio di maggior tutela, che quindi non hanno fatto la scelta del passaggio al mercato libero e che sono stati dunque oggetto di questa migrazione da una tipologia di servizio informatico relativo appunto alla fatturazione delle bollette al successivo, no? Io adesso l'ho banalizzata, ma praticamente sono tanti. Teoricamente appunto in quanti hanno dovuto, dottor Giunta, affrontare questo problema e quanti ancora ce ne sono in sospeso? Perché a parte chiaramente 10, 20, 30, 50, 100 che potranno telefonare a Salvadanaio, leggo dalla stampa appunto che stiamo parlando ancora di qualcosa come di 60, 70, 80 mila persone. Allora, è evidente che nella fase di immediata periodo di migrazione, quindi nei primi mesi a valle della migrazione, il numero era particolarmente importante. Via via nel corso del tempo, e ovviamente adesso arrivati alla fine del mese di settembre, inizi del mese di ottobre, il numero si è ridotto significativamente, e stiamo parlando di qualche migliaio di clienti che è rimasto all'interno di questa sfera di possibili problematiche. Quindi in termini percentuali Le potrei dire che stiamo parlando di qualche punto percentuale, ecco, rispetto al 1.200.000 clienti. Allora, adesso noi cercheremo anche di capire come possono essere risolte, perché in questo lei ci deve promettere il massimo aiuto da parte dell'azienda, le situazioni estreme, perché va bene che una balletta non arrivi per 6 mesi e magari quando arriva abbia una cifra alta ma sostenibile per una famiglia. Quando invece le sorprese sono di altro ammontare economico, qua bisogna capire se si può venire incontro all'utente in maniera un po' più attenta e personalizzata rispetto magari alla platea più vasta. Vi faccio sentire subito qualche testimonianza, poi andiamo alla nostra prima pausa e riprenderemo appunto da questi casi concreti per capire se si possono risolvere tutti con serenità e senza paura per le famiglie, perché se arriva una bolletta magari a sorpresa di 2.000 euro magari la paura può essere tanta, dato anche le difficoltà con cui le famiglie vivono in questo momento, e lo sappiamo che sono tante. Enzo da Roma, rapidissimo, se ce la fa, buongiorno. Un minutino abbondante glielo diamo, sì. Buongiorno, io sono Enzo, sono il consulente di un'azienda, quindi un problema più grande, perché Acea in pratica non fa letture reali dal contatore, né in telelettura né fisicamente, ormai da anni. Abbiamo cambiato alcuni mesi fa il gestore con l'assicurazione che avrebbero fatto le letture. Anche questo gestore ci dice che dipende da Acea e arrivano letture stratosferiche. Acea continua a mandare per esempio bollette dopo la voltura del contratto, e scopriamo, perché noi gli mandiamo le fotografie del contatore con le letture, che in realtà noi non abbiamo mai consumato quegli importi che Acea ci diceva presunti, ma moltissimo di meno. E quindi adesso con un nuovo gestore stiamo ragionando, ma con Acea continuano ad arrivare, è arrivato alcuni mesi fa un conguaglio di 33.000 euro per cose indimostrabili. Che azienda è? Posso saperlo? Di quale tipologia di azienda sta facendo il consulente, per capire insomma quante energie anche si consuma? È un'azienda di spettacolo che lavora tra l'altro praticamente sempre la sera, e quindi i suoi consumi sono notturni. E addirittura è successo che quando abbiamo comunicato che volevamo usufruire delle fasce perché il nostro consumo era notturno, la nostra bolletta si è incrementata di un ulteriore 30%. Quindi è veramente impossibile sapere quanto noi consumiamo. Poter azzerare la situazione e renderla di nuovo trasparente, azzerarla direi, praticamente chiudere anche questo contenzioso. Enzo, la ringrazio, abbiamo capito perfettamente, dottor Giunta prende nota. Abbiamo sentito il caso di Enzo da Roma, che ci ha raccontato come per la verità sta tentando di uscire da Acea per passare ad un altro operatore, ma questo passaggio già è complicato di suo, il passaggio al mercato libero, lo abbiamo raccontato tante volte quando sia piuttosto complesso, perché chiaramente le aziende dalle quali i clienti vogliono uscire cercano di trattenerli nella maniera più aggressiva possibile, se vogliamo, ma in ogni caso qua è particolarmente complesso per Enzo, perché continua ancora a ricevere le bollette di Acea, quindi del vecchio della vecchia appunto società di servizi, e soprattutto ha in ballo ancora una cifra da pagare, secondo la contestazione di Acea, da oltre 30.000 euro. Ci metto un caso, questa era un'azienda, Enzo è un consulente di un'azienda che ha questo problema. Ci metto insieme anche un altro caso, così poi magari facciamo una risposta unica, il caso di un privato che lo stesso sta vivendo un brutto momento, ed è peraltro quello che sta vivendo un collega di Roma, che è Fabrizio Intonti, che è l'autore di Melog. Fabrizio, buongiorno, che quando ha appunto settimana scorsa sentito che avrei fatto questa trasmissione ci ha subito scritto segnalando che appunto anche lui si trova nel bel mezzo di una contestazione con Acea. Perché ti sono arrivate bollette, Fabrizio, con che importo? Allora, la prima che mi è arrivata a luglio di quest'anno, da 2.500 euro, tenendo conto che i precedenti pagamenti erano tutti regolari, e mi sono accorto, chiaramente analizzando questa bolletta, che io ero passato senza saperlo ad un contratto con Acea Mercato Libero. E quindi questo passaggio sarebbe stato effettuato a mia insaputa, perché non ho mai firmato nessun contratto, perché sapevo bene di cosa si trattava e non avrei mai firmato. Ma ti ricordi di aver ricevuto magari qualche sollecitazione da parte di qualche call center o la visita di un venditore porta a porta, perché Acea ha utilizzato anche queste modalità per promuovere appunto i suoi nuovi servizi commerciali? Sì, ho provato a cercare di ricordarmi se c'è stato qualche proposta di contatto. Ricordo soltanto che una volta sono venuti a casa mia nel mio palazzo e io li ho mandati via, perché di questo sono proprio sicuro. Spero con educazione, Fabrizio, perché sono comunque dei ragazzi che lavorano. No, li ho mandati via, nel senso, non è che li ho presi a calci. Non mi interessa, grazie. Non senza firmare nulla, ho detto, non, sì, non sì, mi interessa. No, vabbè, dico questo perché so anche di episodi diversi, di persone anziane che si sono ritrovate con un contratto firmato dopo che appunto avevano rifiutato una proposta di questo tipo, quindi il primo punto secondo me da segnalare è questo dei venditori, però vabbè, insomma, questo magari poi ci ritorniamo, sì, ecco. 2500 euro a luglio. 2500 euro e, da questa bolletta deduco che io sono passato ad Acea Mercato Libero da aprile 2011 e ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno alla CEA specificando che io non avevo sottoscritto nessun contratto e che quindi chiedevo innanzitutto di avere visione di questo contratto da me firmato. Secondo, di ripassare immediatamente, ripristinare il vecchio contratto e con la disponibilità a pagare eventuali conguagli su quel tipo di contratto. Tenendo conto che io ho pagato, tra l'altro, nell'ultimo anno, io ho pagato regolarmente delle bollette che avevano una tariffa poi normale, quindi io non me ne sono accorto di questo passaggio, fino a quando non ho visto questa cifra esorbitante. Certo. Perché, allora, ho mandato questa raccomandata primi di agosto, ho avuto la ricevuta di ritorno, quindi è stata recepita dalla CEA, e non ho avuto nessuna risposta. A settembre mi è arrivata un'altra bolletta da 1.601 euro. E questa volta è sempre a conto, sì, a conto più conguaglio, ce l'ho qui davanti a me. E allora non ho avuto altra scelta che provare a rivolgermi all'autorità per l'energia elettrica e inoltrare il reclamo. Adesso sono in attesa di avere una risposta. Però la cosa quando ti scade, tra l'altro, questa bolletta da 1600 euro, per capire anche se magari potresti subire anche il taglio, poi lo chiediamo, esatto, a giunta anche del servizio, esatto, se tu non volessi pagare perché non ce la fai. Perché no, potrebbe anche per essere. Per me è possibile pagare 4.000 euro adesso così. La scadenza di questa seconda era del 2 ottobre, quindi è già passata. Non è che per caso è cumulativa dell'altra, nel senso che sono 2005 più... No, si aspettano, cosa sto dicendo. No, fa riferimento al terzo bimestre 2012, mentre questa da 1.600 fa riferimento al quarto bimestre 2012. Tu comunque la prima non l'hai pagata, Fabrizio. No. Sarebbe scaduta quando? In ogni caso, il credo ad agosto. Agosto. Perfetto. Allora, in ogni caso lì non ti è stato staccato nulla, per cui adesso vediamo se l'azienda riesce a resistere a non farlo, neanche se non ottemperi a questo secondo impegno. Naturalmente l'azienda dovrebbe dimostrare appunto che tu hai effettuato tutti questi consumi, quindi Fabrizio, grazie per la tua testimonianza. Abbiamo capito, poi vediamo se il dottor Giunta ci può dare anche una mano a farti risolvere questo caso. Abbiamo due casi diversi, Giunta. Io credo che lei conosca molto bene appunto la platea dei consumatori che si stanno lamentando. Entrambi li hanno rappresentati abbastanza in maniera significativa. Abbiamo un'azienda e un privato. Allora, da che cosa vuole partire? In ordine di apparizione, quindi partiamo dal primo caso, che non mi ricordo adesso il nome. Enzo da Roma, che è un consulente di azienda che opera nel settore degli spettacoli, per cui effettivamente magari le luci le utilizzano parecchio, ma 33.000 di bolletta, credo che neanche, non lo so, un'idrovora energetica riesca in poco tempo, però non è detto, ma in ogni caso loro la contestano. D'accordo. Allora, il caso presentato da Enzo ha una caratteristica che francamente bisogna anche un po' circoscriverla a quello che è riconducibile al rapporto che lo stesso Enzo, per la società che gestisce, per cui gestisce la consulenza, ha con il fornitore di energia attuale. Per essere molto chiari, Enzo ha la società che gestisce appunto Enzo ha praticamente scelto un altro fornitore, quindi è passato da Acea Energia ad un altro fornitore. Nel momento in cui succede questo passaggio è evidente che poi il rapporto gli altri fornitori che esistono sul mercato nazionale non intrattengono più nello scambio di comunicazioni con, per ricevere le eventuali letture, comunque consumi per fatturare poi il cliente finale, non riceve più queste informazioni da Cenergia, bensì dal distributore locale e quindi nella fattispecie da Cea Distribuzione. Ecco, ma ci spiega intanto un attimo, quanto è difficile il passaggio ad un altro operatore? Se da voi viene appunto un cliente e vi dice da oggi non voglio più che voi mi serviate, voglio passare ad un'altra persona, no? È tanto difficile chiudere quest'utenza per trasferire tutti i dati all'azienda successiva? Poi cercheremo di capire il motivo per cui ancora, essendo passato ad un altro operatore, Acea continua a fatturare. Allora, io credo che il passaggio sia assolutamente semplice, cioè non dovrebbe essere un passaggio semplice, che francamente non può avere, è regolato dall'autorità e non possono esserci assolutamente dei motivi ostativi al passaggio di un cliente, ma che in maniera volontaria scelga di essere fornito da un fornitore anziché da un altro. Poi lo scambio di informazioni, ripeto, per far sì che vengano emesse le fatture per il periodo successivo, vengono date dai distributori locali, su Roma nella fattispecie Acea Distribuzione, non Acea Energia, quindi per essere molto chiari, così come sugli altri territori nazionali, poi esistono N distributori sul territorio nazionale, a parte Enel, nelle varie città, esiste a Milano, esiste a Torino, esiste a Genova, esiste a Bologna, esistono dappertutto dei vari distributori locali che forniscono i dati, le letture, per essere chiari, che poi sono utilizzate per la fatturazione. Quindi questo è un tema che deve essere in qualche modo anche un po' circoscritto al rapporto che c'è non più con la società di vendita che noi rappresentiamo, ma bensì col distributore locale, quindi è il caso di Enzo. Ora, perché il cliente ha ricevuto una fattura da 33.000 euro, è evidente, sono fatture in acconto, è evidente che a nostro avviso, così come esattamente quello che noi stiamo per fare, fra poco le dirò anche quali sono i prossimi passi, il cliente è tenuto o ha la possibilità di poter lasciare una autolettura, cioè comunicare lui in funzione di quelli che sono i dati che legge sul proprio contatore, quelli che sono i consumi che secondo i dati visualizzati al contatore ha consumato nel periodo e farsi rifatturare secondo tutto quello che ecco, no, questa la prendiamo atto di questa indicazione che ci sta dando. Il problema è che da quello che ci risulta fino a questo momento anche le autoletture appunto non le avete prese per molti casi in considerazione, quindi dovremo anche cercare di capire come mai questo è successo e le letture presunte anomale appunto come vanno giustificate. Tra l'altro, poi adesso devo andare in pausa, ma le preparo anche questa domanda. Dottor Giunta, le fatture di acconto è prassi del mercato, questo lo sappiamo perché a tutti arrivano delle bollette appunto con sempre delle letture presunte, ma esisterà un limite? Quanti consumi si possono presumere? Non so, il 10% rispetto a un consumo medio che un utente o un'azienda fa stabilmente, oppure insomma un'azienda può essere libera di fatturare in via presunta tutto quello che vuole, per cui anche lì ci saranno dei limiti imposti dall'autorità o da una sorta di autoregolamentazione, non lo so. Allora, volevo sentire anche Tina da Roma e poi concludiamo, anche perché ci rimangono alla fine 7-8 minuti e volevo risolvere proprio con grande concretezza i casi che abbiamo sottoposto ad Antonello Giunta, l'amministratore delegato di Acea Energia. Tina da Roma, rapidissimo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dottor Giunta, proprio lui. Acea, da un po' di anni siete diventati una cosa che non si capisce proprio. Io sono arrivata a pensare che il contatore, quello installato elettronico, c'ha qualche truffa dentro. Oh, mamma mia. Senta, allora, una volta ogni kilowattore erano 400 giri. Bene, non ho capito. Fascia 1 quanto costa il kilowattore? Fascia 2 quanto costa? Ci mandate delle bollette, pagine e pagine parlando dell'IVA. E fascia 3 quella costa? Proprio colpa di Giunta non è, nel senso che esiste tutto un altro, no, nel senso che è tutto un sistema nero, lui, un sistema nero, ecco. Voi dovete mandarci a dire esattamente ogni kilowattore quanto consuma, fascia 1 quanto costa, fascia 2 quanto costa, fascia 3 quanto costa, perché io riscaldo a bagno, l'accendo verso le 3 del mattino quando mi sveglio, l'accendo un paio di ore, lavatrice faccio sempre a freddo, una volta ogni 2 settimane, ma io come è possibile devo avere quelle bollette così brucente? Mia vicina di casa è andata a Ostiense, sì, è vero. Avere dei chiarimenti, niente, non si può dare la lettura. È vero, gli operatori in Piazza Ostiense pare che appunto non ricevano, sono un po' esausti anche loro di queste proteste molto vivaci che devono affrontare ogni giorno e che tra l'altro molto spesso richiedono anche l'assistenza delle forze dell'ordine per poterle gestire. Tina, abbiamo capito, la interrompo non per maleducazione, abbiamo capito appunto con lei che ci dice però bisogno di questi ultimi 5-6 minuti di tempo per avere delle risposte molto concrete da Giunta, che oggi ci prometterà solennemente che si impegna entro Natale a risolvere tutte queste situazioni. Tina, immagina che ci sia l'omino del contatore che lo fa correre più velocemente, non capisce come vengano fatturati appunto i consumi. Questo è anche un altro problema che non risolve Acea, ma dovrebbe essere risolto complessivamente. Detto questo, per esempio, il mio collega Fabrizio, 4.000 euro di bolletta in sospeso, come può fare a risolvere la sua situazione? Allora, il suo collega ha fatto intanto un accenno a quello che è il passaggio da un mercato sì. all'altro. E dico, su questo recentemente, al di là di quello che la società ha fatto per inasprire tutte quelle che sono le azioni per tutelare tutti coloro che scelgono il passaggio da un mercato all'altro, e quindi il rapporto con i nostri business partner è stato... Cosa vuol dire il business partner? Della massima tutela del consumatore. E a tal proposito, l'autorità ha recentemente deliberato la nuova delibera 153, dove ci sono una serie di passaggi che sono appunto a tutela del del consumatore. Proprio noi contro le pratiche commerciali scorrette. Hanno sottoscritto un contratto presunto, tra virgolette, mi lasci passare il termine, o effettivo, una lettera nella quale indichiamo quello che è stato la documentazione che abbiamo ricevuto, quindi la richiesta di passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero, comunque anche da mercato libero a mercato libero da altri operatori, e questa lettera praticamente viene inviata a tutti i clienti con un lasso di tempo che vengono lasciati 40 giorni di tempo al cliente per rispondere o meno, se confermare o meno il solito silenzio assenso, che è una pratica che ci piace relativamente, però di fatto insomma arriva questa comunicazione, l'utente dovrebbe dire sì, io accetto di passare al mercato libero o no, altrimenti si ritrova automaticamente passato dall'altra parte? Questa diciamo è una prassi che francamente serve anche un po' a tutelare il cliente, nel senso che se effettivamente il suo collega avesse ricevuto questa lettera, fermo restando che comunque noi espletiamo le quality call che sono appunto a tutela immediatamente dopo la sottoscrizione di un contratto viene effettuata una quality call appunto per verificare se effettivamente questo contratto è stato sottoscritto. Benissimo, mi pare che lui non abbia ricevuto niente. Senta dottor Giunta, cioè, però purtroppo devo chiudere fra 2 minuti, ma prendete le letture in Piazza Ostiense, oppure se qualcuno chiama il vostro call center e vi dice l'utente io ho fatto questi consumi, per cortesia mi vuoi fatturare questi, perché non avete preso più questi dati dagli utenti? Allora l'autolettura, glielo anticipo in diretta, l'autolettura sarà assolutamente aperta a tutti i mercati, quindi sia tutela sia libero dalla fine del mese, quindi il 1° novembre tutti i clienti che ricevono delle fatture in acconto potranno rilasciare l'autolettura, quindi inizialmente sul canale di call center e subito dopo lo sportello, progressivamente nel mese di novembre a tutti gli altri canali di contatto, e quindi mi riferisco al web in particolar modo, ma anche all'eventuale app che lanceremo nel mese di novembre sui telefoni cellulari. Quindi la possibilità di lasciare l'autolettura, noi rifattureremo secondo il dato che ci ha dato il cliente, sia sul mercato di maggior tutela che sul mercato. Quindi ammettendo che il mio collega Fabrizio potesse utilizzare questa procedura dalla fine di ottobre e vi dicesse io ho fatto questi consumi da gennaio ad ora, per cui tu Acea me ne hai fatturati molti di più, azzeriamo le sue vecchie bollette, siamo sicuri che non gli stacchiamo i servizi a Fabrizio? Guardi, io come le dicevo prima, la società ha messo in campo delle azioni appunto a tutela per cercare appunto di dare la massima flessibilità nei confronti del cliente. È evidente, e su questo è l'impegno che lei mi ha chiesto di dare ed è quello che le sto dando a lei e a tutti i radioascoltatori, di assicurare che ci sarà la massima flessibilità da parte dell'azienda in tutti i casi, fermo restando che c'è l'autorità che sancisce in maniera molto chiara quelle che sono le regole da utilizzare in casi di rateizzazione. Ecco, questo però è evidente che in questo caso e soprattutto di fronte a una situazione che vede coinvolte diverse centinaia di clienti, è importante che la società si faccia carico di un'eventuale ulteriore elasticità nel rapporto con la clientela. Ecco. Questo è doveroso da parte nostra, appunto per tutelare il rapporto con il cliente, ma per assicurare nel minor tempo possibile la stabilità delle informazioni e soprattutto che il cliente paghi esattamente quello che ha consumato. Dottor Giunta, ci risentiamo prima di Natale per vedere se questo servizio funziona, per verificarlo? Un piacere, spero benissimo. Di portare buone notizie. Grazie, grazie ad Antonello Giunta, l'amministratore delegato di Acea Energia. Le chiedo di portare i miei saluti al suo staff dell'ufficio stampa e naturalmente Salva Danaio, ci sentiamo domani. Buona giornata.